c'è Martone, sì. Questo è il telefonino, sta squillando. Pronto? Sì, pronto, sottosegretario? Viceministro? Sì, sì, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, Parenzo, disturbo. Buonasera. No, buonasera. Come sta? Come sta, carissimo? Benvenuto. Ma vogliamo fare cosa? Martone, numero uno. Solo questo volevamo dirle. L'abbracciamo totalmente. L'abbracciamo anche forte, Martone, ha ragione lei. Come mai tutte queste critiche, scusi? Non lo so, forse perché effettivamente ho toccato un tasto dolente. Ho il telefonino scarico, però il rischio è che cada. Quando cade. Però ha detto una cosa saggia, lei, vera. Me la spieghi bene, ci spieghi bene qual è la ratio di questa sua frase? Perché ha dato degli sfigati a quelli che a 28 anni non sono ancora laureati? Perché stavo parlando ad un convegno sull'apprendistato, dell'importanza dell'apprendistato, del fatto dell'importanza che i giovani ricomincino a lavorare, e io ho detto che ad un giovane che aspetta, che non si è ancora laureato a 28 anni e che ho chiamato, come avete detto voi, ho paura persino di dire la parola, preferisco un giovane che magari fa l'apprendistato, sceglie di diventare magari artigiano e che a 16 anni si fa il suo contratto e comincia a lavorare, perché siamo nel mezzo di una crisi economica drammatica, certo. E noi abbiamo bisogno che i giovani ricomincino a lavorare. L'ho detto. Parlando in un intervento di 20 minuti, purtroppo ho sbagliato a parlare a braccio, forse non sono stato sobrio, ma penso che sia importante che i giovani italiani ricomincino a lavorare, perché le imprese cercano laureati giovani, la categoria dei giovani esperti, e per riuscire a trovare lavoro in questo momento così drammatico bisogna sbrigarsi e dare il massimo. Senta, lei dunque ce l'aveva con cui ce l'aveva, diciamo, utilizzando una parola, la dica però, sfigati, così per esorcizzarla anche per esorcizzarla. Non credo che la dirò più. No, ma è nell'immaginario, ma la usano molto la parola sfigati, non è una ormai parolaccia, ormai è come Bamboccioni, è entrata, che lei voglia o no, caro Martone, è entrata ormai ma è vero, sono degli sfigati, cioè se lo pensa ha fatto bene a usare anche un gergo giovanile che arriva al cuore dei giovani, sottosegretario. Ma guardi, io da questo punto di vista, purtroppo mi è venuta quella parola, non mi sono ancora abituato. Ma si pente? Si pente di averla detta? Perché vuoi farlo pentire per volte? No, perché lo penso, mi dispiace di non essere stato sufficientemente sobrio, essere più sobrio, perché il fatto che si cominci a parlare nel paese anche delle media, della laurea, credo che sia un mio piccolo contributo a cercare di far uscire il paese dalla situazione Bravo. È difficile e dobbiamo cominciare a dirci la verità. Forse ho sbagliato il modo, ma per il resto cosa ha sbagliato? No, il modo, che significa il modo? Cioè la parola? La parola sfigato. Come la cambierebbe? Se la potesse cambiare, che parola utilizzerebbe, per esempio? Non con un linguaggio da viceministro. Sbrigatevi a laurearvi. No, non è efficace, viceministro. Liguori si scarica il cellulare. Voi che parola avreste usato? L'ho trovata e guardi com'è andata. La sua. Che parola avreste fatto? Noi avremmo usato la sua, viceministro. La sua. Ma poi avreste visto quello che vi sareste visti. Quello che però ci tengo a dire e che mi dispiace è che per tutti quelli che lavorano e studiano insieme, tutti quelli che hanno avuto problemi di salute e hanno continuato a studiare, tutti quelli che scrivono all'università tardi perché hanno voglia di scrivermi, loro sono dalla parte loro, li stimo, li apprezzo e penso che sono un modello per questo paese, però purtroppo non si parla di quelli che si impegnano e troppo spesso si parla di altre cose. E gli sfigati quali sono? Gli sfigati quali sarebbero allora? Diciamo? Ci sono Tanghi, tutti i 2 milioni di ragazzi che non studiano, non lavorano, non si formano. Ecco, mi dispiace che tutti quei ragazzi invece non sfruttino i loro talenti per fare il bene del nostro paese in un'Italia nella quale purtroppo il mercato del lavoro è complicatissimo. La Lega dice che è uno snob, la Lega ha detto che è uno snob. No, molti le hanno rimproverato anche di essere un raccomandato in queste ore. Cioè, parla lui che è raccomandato, che vive nel mondo. Che in questo momento, in tutta franchezza, invece di essere attaccano me e la mia persona e quello che ho fatto, invece basterebbe che andassero a leggere le cose che ho scritto, perché queste cose le scrivo nel corso degli anni, e in tutta franchezza si attaccano a me, non quello che ho detto, non le idee, non parlano dell'età media di laurea che in Italia è troppo alta rispetto agli altri paesi europei, significa che tutto sommato ho toccato un nervo scoperto e che quello che ho detto era una cosa giusta. Senta, ha parlato col ministro Fornero? Le ha chiesto qualche spiegazione per questa frase? Il ministro Fornero mi ha fatto un bel sorriso e mi ha detto di essere più sobrio. Non ha fatto un cazziatone, per usare un termine che a noi è consono, diciamo, la zona. No. Fornero non ha fatto un cazziatone. No, adesso però vi prego, fatemi andare. Ma la Lega ha detto che lei è uno snob. Ma chi gliene frega, che risponda la Lega, Martone. Io pensavo che invece la Lega fosse della mia parte, perché visto che io ho difeso i giovani apprendisti che vanno a lavorare, al nord ce ne stanno tantissimi, è coraggio andare a difendere. Io speravo che una volta tanto la Lega in qualche modo invece potesse sostenere il consenso. Io confido che lo faranno, perché rappresentano un'Italia del nord anche laboriosa, che in tutta franchezza penso dovrebbe essere contenta di queste... Senta, faccio una domanda complicata. Fatemi andare. Che lascio andare. In silenzio stampa, guardate una volta che ho parlato, che casino che è accaduto. Martone! Ufficialmente con Michel Martone. Siamo tutti con lei, Michel. Un abbraccio, grazie. Pubblicità. Grazie.